22:46 minuti primi, gli 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale Radio Onda Rossa. E dopo le note la teutonica preparazione e presentazione della trasmissione, prove tecniche di trasmissione da parte di Elettrodo, che salutiamo e ringraziamo, arriva questa voce. This is no direction. A rompere le uova nel paniere. Saltata una settimana, siamo tornati di nuovo qui e abbiamo dimenticato quanto ci eravamo appuntati per la preparazione di questa puntata. Quindi si va a braccio. Forse un dettaglio di cui interessa poco, ma invece quello che vi deve interessare è la campagna di radioabbonamento. 30 per 1000. Di voi tutti e voi tutte. Per continuare ad ascoltare questa radio unica. O fra le pochissime. Che dal 1977 vive. E questa è veramente unicità. Senza aver mai fatto un minuto di pubblicità, un secondo, una frazione. Perché non è una radio che vi sta a vendere merci. Ma un emittente che nasce dalle strade, dalle lotte e non ha mai abbandonato queste forti radici. Ha continuato a praticare. Anche nella persona dei redattori e delle redattrici che ne fanno parte. Praticare le lotte, la strada, nelle scuole, nei posti di lavoro, ovunque ci sia da confliggere per poter comunque strappare il diritto a sopravvivere, a vivere una vita dignitosa. Ed è per questo che Radio Onda Rossa vive da 42 anni in questo modo, grazie anche a tutte e tutti voi. E ancora a voi tutti e a voi tutte chiediamo di andare, se non l'avete già fatto, di andare sulla pagina di Radio Onda Rossa, ondarossa.info, www.ondarossa.info. In alto c'è un banner, ci cliccate dentro, seguite tutte le istruzioni, leggete quello che c'è da leggere. E spendete 2,50 euro affinché questa al mese affinché questa emittente possa continuare a essere al centro dell'informazione, della discussione, del dibattito che più vi piace. Necessario. oppure il vecchio conto corrente postale per chi non è pratico di internet e di marchingegni elettronici, 61 80 40 01, numero di conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185, via dei Volsci 56, Roma San Lollo. Se volete comunicare con la radio o anche commentare la campagna, c'è la mail della radio Ondarossa, @ondarossa.info. Se invece volete mandare le vostre proposte allo spazio che state ascoltando, 25 o'clock 25 scritto al numero, 25 o'clock @ondarossa.info. Dal momento che fino a 10 minuti fa c'era qua negli studi della radio il 50% di Blues Night, non potevamo che partire in questa maniera. Mettere subito le cose in chiaro di come andrà stasera, ma saremo meno zompettanti di adesso, non è detto che col progredire dei suoni si andrà a compiere altre oscillazioni con il corpo. Abbiamo iniziato con Bob Diddley, proprio al confine fra il blues e il rock and roll sul finire degli anni 50 con la sua chitarra autocostruita di forma quadrata. E abbiamo ascoltato I Can Tell, poi un bel balzo in avanti ...1995 per la Geffen, ve la ricordate? L'etichetta dei Nirvana e di tanti altri gruppi, una piccola label enorme se confrontata alle etichette indipendenti nostrane, però rispetto ai mostri discografici dell'epoca la Geffen era una etichetta minore che appunto attraverso la abile politica di lanciare il grunge essenzialmente, di mettere sotto contratto queste band emergenti, divenne praticamente una major. Adesso è quasi sparita, non so cosa, non mi sono più capitate pubblicazioni della Geffen. Comunque questi era Joe Spencer con la sua allora compagna Krista Martinez, che era una gelatara, che fece questo splendido lavoro nel 1995, Boss Hog. La decima traccia, Idolize You. Yeah.

giustamente diciamo, quando diciamo che la radio la fate anche voi, intendiamo anche questo. Infatti ci chiamano per ricordare cose che non ricordavamo dati gli anni passati e soprattutto celebralmente. Che ancora prima dei Nirvana la Geffen era uscita insomma dai ranghi di piccola etichetta indipendente pubblicando Janssen's Roses. Cosa che forse avevamo rimosso, perché i Janssen's Roses, insomma, lasciamoli lì dove erano. Forse da qualche parte abbiamo anche un audiocassetta dei Guns Roses, sicuramente. Anche degli Aerosmith. Vabbè, insomma, rock and roll stasera. Ma non sarà sempre così, per cui se dovete agitare le zampette fatelo ora, perché perché altri pensieri ben più cupi ci occupavano la giornata quest'oggi. Per quelle cose che si vedono in giro, che ci stanno attorno, che succedono. E allo stesso tempo ci intristiscono e ci fanno incazzare. Un po' il tema, l'adagio di questa trasmissione da tanti anni e da quelle prima ancora. Una critica fatta non si sa bene da quale angolazione, ma comunque proprio al modo di vivere che ci è imposto, che ci è comandato, che ci è raccomandato. What a relief. I feel like a soldier. Dopo The Clash, Brand New Cadillac. Cramps, Rockin' Bones. Five o'clock, Radio Onda Rossa 06 49 17 50. Dai. Right. A few more times around a heart. Bello rockabilly. Il difetto che c'ha è che tutte le tracce sono da 2 minuti e 30, però dentro un disco, dentro un concerto ce ne entrano 200. Una concentrazione di energia pura che nasceva alla fine degli anni 50, inizio anni 60, quando i gruppi più scatenati di rock and roll cominciavano a produrre questi tipo di sonorità. Nel rock and roll c'era comunque il cantato americano, alle volte alla Elvis Presley, un po' così, che veniva dalla tradizione country, alle volte un po' stucchevole. E poi c'erano i pezzi scatenati, ecco, questo è la radice del rockabilly. Poi ripassa il setaccio del punk. Nel 77 esce tutta una nuova pletora di formazioni rockabilly, psychobilly. Per un certo periodo la pubblicazione in oggetto è del 2005, per un certo periodo un po' al centro della scena la fecero questi Mad Sin provenienti dalla Germania. Da cui abbiamo ascoltato Moonlight Shadow. E finché ci sono queste sonorità non c'è l'atmosfera adatta per rompervi, spaccarvi la serata con le mie lamentele, con le nostre lamentele riguardo le cose che non vanno. Perché questo è un concentrato di energia pura. Bisogna spararne una appresso all'altra. Per cui abbiamo ascoltato prima Boss Hog, ovviamente la chitarra era di Joe Spencer. Ora Joe Spencer Blues Explosion Live. un concerto degli USA con l'album allegato, pubblicato nel 2010, postumo però penso già di un po' di annetti. Controversial Negro si chiamava questo lavoro, da cui andiamo a ascoltare la quarta traccia, la celebre Cool V, Joe Spencer Blues Explosion, Radio Onda Rossa 25 O'Clock. Quindi non è facile tagliare e mixare, per cui andiamo in voce. Ricordiamo brevemente la campagna in sottoscrizione della radio, in radio abbonamento, andando sul sito www.ondarossa.info trovate tutte le informazioni, ve lo ripetiamo sovente perché c'è bisogno di uno sforzo ancora da parte di tutte e tutte voi. Ed oltre che dai microfoni della radio stiamo cercando di fare in modo che la campagna possa vivere anche dentro la città per rilanciare il protagonismo di Radio Onda Rossa dentro la comunicazione antagonista. Lasciamo Joe Spencer Blues Explosion. Son! e ce ne andiamo verosimilmente in Tennessee, dove si fa il bluegrass, che è questa roba splendida qua. Onda Rossa 25 o'clock, Old Crow Medicine, e questa è Hard to Tell. Parlavamo di spaccalegna prima, di gente che va per boschi. Ed eccoci qua, quindi William Elliott Whitmore, da a capo ruspantissimi. My mouth could not some healing to do. Sono quelle cose che poi questo tipo di suono e questo tipo di impegno sociale come quello di William Elliott Whitmore, impegnato nelle battaglie per così, come dire, molto simili poi, molto non troppo distanti a quelle che hanno interessato le tematiche della della manifestazione di sabato scorso. Cut the forest clear. Don't mind me, I'm just living here. E c'è quelle di una periferia del mondo, quello un po' meno improntato alle politiche di quel capitalismo, di quell'industrialismo, di quell'estrattivismo così rude, così irrispettoso, così arrogante, che fa della terra, delle genti, della natura, della vita che insiste sui territori di questo paese un incidente, qualcosa da, nel migliore dei casi, da convincere. Da convincere che così è meglio. Ci si gira intorno, semplicemente basta girare gli occhi, lo sguardo in questa città fatta di cemento. Cemento che è una roba dura e senza anima. Alle volte dentro il cemento, per farlo ancora più duro, ci si mette il ferro. Under the radar, hopefully. Under the radar, e si va a accumulare quelle enormi prigioni che chiamate metropoli, so they, prigioni scintillanti di vetrine e di merci. Under the radar, hopefully. Ma comunque ferro e cemento devono essere presi da qualche altra parte, probabilmente da sottoterra, quindi sventrare qualche parte del mondo per fare le vostre belle metropoli. Dove si vive monticchiati uno sopra gli altri nei palazzi, nei grattacieli, nei ghetti. Civilizations, they come and they go.

c'è mio fratello steso accanto a me, lo scafo in barca acqua dalla stiva, ed io non so se ancora respiro. Ricordi le giornate di fuori, chini sui filari di pomodori, un aeroplano sgancia una polvere scura ed un uomo bianco che fa paura. Ha fregato un negro, ora lo spinge indietro, torniamo indietro, si può fare o portami via, volevo solo respirare. Non un'odissea attraverso il mare, provvidenza nella notte dei santi, torniamo indietro prima che sia troppo tardi. We met in the springtime when blossoms unfold, the pastures are green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on, our love like the leaves now have withered and gone. The roses have faded, there's frost at my door, the birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die, and out in the darkness the whippoorwills cry. Allora, Hank Williams era un... era un autore, un cantautore country statunitense di quell'epoca in cui, nel dopoguerra, ci si doveva liberare di quell'orrore, anche se negli Stati Uniti era fatto soprattutto di reduci. E di un'economia fatta di duro lavoro che ripartiva nel boom economico e di una gioventù bruciata. Che di questo sforzo immenso sopportava proprio come generazione il peso più grande. Di questa gioventù bruciata faceva parte anche Hank Williams, morto a 30 anni nel primo gennaio del 1953. Questa Alone and Forsaken, che è una cover rifatta dalle Social Distortion, che di Hank Williams riprendono. Molto della poetica, cioè della descrizione di quel mondo là, molti altri anni più tardi. Una cosa più triste forse di Alone and Forsaken, in così nelle cose che abbiamo ascoltato difficilmente la troviamo, la possiamo trovare. Una storia di fine di storia, una storia di abbandono, una storia di solitudine. Una storia per cui forse a 30 anni vale la pena di impasticcarsi, di bere forse anche troppo. Invece noi ce ne andiamo non troppo lontani da lì. Io la tengo. Un lavoro del 2018 che, ascoltato così, può dir poco, diciamo. Può non essere subito digerito, è fatto di lentezze e di atmosfere rarefatte, è fatto di suoni di sottofondo distorti di fronte a un, invece, a un sound più pulito. Un disco che al terzo, al quarto riascolto invece è impossibile da lasciare. Of the good and the bad, traits we share. Un titolo furibondo che ci fa morire di piacere. There's a riot going on, si chiama questo lavoro. Pian pianino ce lo stiamo ascoltando, She May, She Might, terza traccia, io la tengo, a 25 o'clock, dai. E nell'indie non ci sono solamente gruppi con la cantante necessariamente asiatica o giapponese. Come nel caso precedente di Io la tengo e in questo caso del cantautore canadese Chad Van Gallen, ci si inerpica anche in territori al confine con l'alterazione psichedelica. In queste ballate che alle volte ricordano il C. Barrett, magari non così ubriaco fatto, è chiaro che siamo approdati verso la modernità. Forse il fenomeno del momento, almeno dal punto di vista del numerico, della produzione, dell'energia che emette, è T.I. Seagal. Non è possibile avere la sua discografia o comunque seguirla, data la sua vulcanicità. Produce molto di più di quanto noi possiamo ascoltare. Mentre nel 2019, al terzo mese, credo che abbia già prodotto un disco. Nel 2018 ne ha prodotti 5, se non andiamo errati. Uno di questi è Fudge Sandwich, un lavoro di cover delle cose che avrebbe sempre voluto suonare. Quindi T.I. Seagal che risuona Spencer Davis Group, la celebre I Am a Man, T.I. Seagal. Che ce l'ha fatta a partire perciò da capo. Just how strong I will can be in resisting all. Midnight. Thank you. Bene, 19 minuti dopo la mezzanotte e questi giochini che facciamo in fine trasmissione. Un omaggio a DJ Shadow. Prima con il suo Kubert Mix. Un lavoro del 1997 registrato live, appunto, per quanto riguarda un DJ Shadow dei primi anni. Del primo periodo in cui piatti, mixer e synth la facevano da padroni. In cui Kubert, DJ Kubert, non solo registrava l'uscita di quanto produceva il producer, ma aggiungeva anche la parte ritmica. Poi invece una produzione più recente per quanto riguarda DJ Shadow del 2016 o 17, che si chiamava The Mountain Will Fall. Da qui abbiamo ascoltato la terza traccia, Three Life. E poi invece andando di là dell'Atlantico e della Manica, Fortet, cioè il progetto di Kieran Beden, il producer britannico di origini, però almeno la parte di madre indiane. Che ci sta accompagnando in questo fine di serata, questa era Out Navigation. www.ondarossa.info, il sito della radio, ci trovate in bella mostra la tessera di Radio Onda Rossa, la tessera del radio abbonamento per il 30 per 1000. Una splendida grafica. Vi lasciamo quindi in compagnia della compagna automatica Sonata. Si riprende in diretta per domani mattina dopo le 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadini, redazionali della mattinata del giovedì, il giornale radio delle 13, lo spazio comunicazione alle 13.30, alle 14, tutta scena cinema alle 16, Attica Blues oltre Black Music, la schiena del sole alle 17, il Mezzedes delle 18 alle 20, ma non lo ricordiamo mai, credo che non ci sia Tabula Rasa domani, o ci doveva essere ma non ci sarà. Vabbè, non siamo mai precisi, cercheremo in futuro di leggere meglio, tra l'altro, le comunicazioni che ci arrivano riguardo al palinsesto. Comunque, Apostasia chiude il giro tondo del giovedì con Fongis e Paizo e la, tutta la crew di Apostasia. Il nostro saluto più importante va al solito a tutte e tutte coloro costretti e costrette a condizioni di limitata libertà personale, carcere, clandestinità, latitanza, arresti domiciliari, decreti amministrativi che vi costringono, ci costringono a una vita ancor più di merda di quanto è normalmente. Noi ce ne andiamo, ci risentiamo mercoledì prossimo, ce ne andiamo sotto la, la luna comunista, daje, daje, daje. Hey! again, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. I'll share our dreams under a communist moon.